Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Mauro De Angeli in regia e Franco Piantanida in redazione. E la Juventus che oggi ha riscattato Matri, Quagliarella, Pepe e Motta, tutti a bordo, totale 37 milioni di euro, se volete poi vi do anche i dettagli, 37 milioni di euro da pagare in 3 anni, rate dunque triennali. Questi si aggiungono a Pirlo, Pazienza e Zieler, forse tra un po' pure Lichtsteiner, ma soprattutto si aggiungono ad un sacco e una sporta di no, che sono quelli delle superstar contattate da Marotta fin qui. Anche se oggi si legge e si scrive di Agüero, genero di Maradona, di cui dopo parleremo anche. Per una squadra che è arrivata, la Juventus naturalmente, settima a meno 24 da chi ha vinto lo scudetto, mi pare un mercato abbastanza da ridere. Non so come la pensate voi, 800240024. Quindi vorrei parlarne con uno che ha fatto della risata un mestiere, Max Pisu. Buon pomeriggio Max, grazie. Buongiorno, buongiorno. Anche se oggi ridere parlando di Juventus. E allora che cosa si fa? Perplessità, rassegnazione, essere o non essere? Juventini. Essere o non essere, non so, io intanto un saluto a tutti, buon pomeriggio. E, non so, siccome sapevo di questa intervista, stavo pensando un po', appunto, se si parlava di mercato, di questi nomi. Io sì, ricordo che la Juventus, quella che vinceva comunque, non era sempre alla ricerca del campione tanto per prendere uno che costasse tantissimi soldi. Cioè la Juventus è diventata la Juve prendendo Montero dall'Atalanta, Carrera e Inzaghi dall'Atalanta, dopo Inzaghi ha preso Vieri dall'Atalanta, un allenatore come lì. Le superstar c'erano le superstar, sì, però nel senso che noi vedendo Zidane abbiamo preso Buffon, Nedved e Thuram, cioè si sapeva fare il mercato, secondo me, una roba che l'anno scorso è stato quello che ci ha penalizzati pur aver prendo e tutti voluto a gran voce Marotta, no? Sì, sì. Lì la delusione è stata un po' quella, ecco. Con i mezzi nomi non abbiamo fatto praticamente niente. Senti, ma dimmi la verità, se tu fossi, il nome di oggi è il solito Agüero, no? Si parla di lui. Se tu fossi il genero di Maradona a questa Juventus, in questa Juventus andresti a giocare volentieri? No. No, in questa Juventus no. Non essere. Sinceramente no, ma infatti c'è tanti rifiuti, ma anche non solo di grosse star, ma anche di giocatori medi. Sì. Lo stesso, come si chiama, Al-Sharawy, quello che è stato preso adesso dal Al-Sharawy. Al-Sharawy, che con la promessa, no, alla Juve no, preferisco andare al Milan piuttosto che. Giusto, il Milan ha vinto il campionato, farà la Champions, è una squadra forse ancora più forte quest'anno, quindi. È giusto, però tutti questi rifiuti, ma già da un po', da Frinks di 2 anni fa, poi una serie di giocatori che si sono rifiutati di venire alla Juve. Quest'anno poi, essendo fuori dalle coppe, è ancora peggio. Io sono convinto che Marotta si tenga in tasca un ultimo asso che potrebbe essere quello di Cassano. Non so, è solo una mia fantasia, ma tanto le fantasie in questo periodo valgono tutte, quindi però potrebbe essere Messi Cassano. Come, no? Messi come dice che no, Chi? Messi non c'è, Messi dico non ce la faccio. Messi l'anno prossimo, ha già firmato per l'anno prossimo, stai tranquillo. Tanto hanno firmato in 2000 ieri, 2000, questo è strano, è anche bello se vuoi, 2000 anime pie che si sono messe in coda per comprare il loro seggiolino, il loro abbonamento nello stadio nuovo. Una volta c'era chi a scatola chiusa comprava solo una certa marmellata, però evidentemente sì, i tempi cambiano. Esatto. Però insomma, il fatto di avere uno stadio nuovo è anche bello stimolante. Il primo in Italia avere uno stadio di società, quindi di proprietà, quindi lo stadio insomma è veramente, veramente bello. Però penso che bisogna riempire il nostro stadio anche con i giocatori adatti, adeguati a quello che. Con una squadra qualcosa riesce a combinare. Senti, ma rabbia e depressione mi sembrano il vestito ormai abituale, e poi per alcuni nostalgici del regime, guai a chi tocca a Moggi. Ti confido una cosa: viene quasi voglia di tifare Juventus per vedere e sentire qualcosa di nuovo. Sì, dici da parte di chi? Anche di chi non è juventino? Esatto. Sì. Ma anche gli interisti, dici? Sì, dai, anche loro. Secondo me anche loro. Anche loro. No, ecco, diciamo che l'Inter quest'anno è un bel allenatore, dai. E la Juve? E la Juve? E la Juve, io sono molto contento di... Sei contento? Sì, contento di Conte, sì, devo dire di sì. Tanto quest'anno un allenatore che vincesse qualcosa di importante non ci serve, perché, quindi Conte penso che sia giusto, no? Si parlava di Juventinità, credo che uno che ha giocato 13 anni nella Juve, insomma, sia stato il capitano per un po' di anni. Magari secondo me serviva anche qualcos'altro oltre la Juventinità, però vabbè, queste sono altre storie, hai ragione tu nel dire che l'Inter ha un bel allenatore, insomma. Esatto. Da una comica all'altra, il casting Inter l'ha chiamato qualcuno, caro Max, a me sembra una specie di contro Grande Fratello, cioè tutti fuori dalla casa e vediamo chi entra. Sì, infatti adesso è anche uscito anche Materazzi. Sì, Materazzi fuori dalla casa, è stato nominato. Il fratello è uscito dall'Isola dei Famosi. No, però è carina questa dell'Inter, eh. Questa fa ridere un fa po', ridere, o no? Sì, stanno tornando i vecchi interisti. Sì, è quello di cui hanno più paura. Intanto è carina anche quella di Leonardo, lingua biforcuta, che forse si è dato all'alcol, non lo so, gli ha ritirato la patente in Brasile. Anche questa non era male. È vero, mannaggia. Ma comunque Leonardo è riuscito a scontentare tutti. Sì, cosa ne pensi di... Leonardo? Sì, di Leonardo. Non può, istintivamente ti piace, no? Istintivamente è uno charmant, ha appeal nei confronti di tutti. Ti viene quasi voglia di volergli bene. Poi appena lo abbracci, bam! Io l'ho conosciuto ai tempi del Milan. Poi lui è sempre stato, come si dice, disponibile per iniziative benefiche. Cioè l'ho sempre coinvolto, lui ha coinvolto ormai nella sua associazione, quindi abbiamo sempre fatto insieme delle cose. Lui poi mi diceva sempre che non avrebbe mai fatto l'allenatore, ma il suo sogno sarebbe quello di intraprendere l'attività, poi che è l'ultima, di direttore sportivo, direttore, comunque una carica diversa da quella dell'allenatore. Infatti quando andò al Milan mi stupì un po' questa cosa, quando poi ha accettato lì, cioè, però sai, ha insistito, vabbè. Adesso credo che sia veramente quello che voleva fare, quindi... Ma sai, su quello che voleva fare poi dipende dai soldi, secondo me. Uno fa quello che gli conviene alla fine, no, perché no, vero. Io sono anche un po' stufo di sentire questi che dicono, che parlano di scelte di vita col portafoglio gonfio, perché scelte di vita e portafoglio vuoto non ne fa nessuno. Sì. Max, io ti ringrazio, buona estate. Cosa stai facendo adesso? Grazie a voi. Io adesso inizia l'estate, quindi qualche serata in giro nelle piazze, anche se non è più come un po' di tempo fa, insomma, ci sono pochi soldi, tanti tagli, soprattutto per lo spettacolo, sappiamo com'è. Sì. E quindi, insomma, si lavora un po' meno, ma si lavora. Poi, le piazze però sono piene, mi pare. Le piazze, se non sono spettacoli a pagamento, le piazze sono piene. Max, in generale, grazie. Sono piene le piazze, bello. Grazie, un abbraccione. Anche a voi, ciao. Grazie, ciao. Grazie Max Pisu. 800 24 00 24, Rico è libero, segnala Gianni, ma poi parliamo anche del casting morattiano, facendoci due risate, perché di questo ho voglia, poi se agli ascoltatori piace bene, altrimenti chiamino all'800 24 00 24, che parliamo di quello che vogliono loro. Molti ascoltatori colpiti ad esempio dal fatto che, ed è ufficiale, notizia di oggi, l'ufficialità è di oggi, Zeman tornerà ad allenare in Serie B a Pescara. Insomma, non mi sembra una notizia epocale. Io Zeman non lo considero un allenatore che a questo punto non rientra più, ma c'era stato anche nel casting moratiano, per alcuni almeno, tra i possibili allenatori dell'Inter. Lo considero un allenatore che è non un paladino né una bandiera, insomma, non ho il mito di Zeman, quindi in bocca al lupo a lui che torna ad allenare in via Pescara. Detto questo, non mi sembra il caso di strapparsi la camicia, ecco. Vi do invece qualche altra notizia, sempre di oggi, era scontata ma è arrivata anche la firma di Vilas Boas al Chelsea. Guadagnerà 5 milioni di euro l'anno per 3 anni, e scrivono i ben informati sui siti inglesi che la prima richiesta del giovane neoallenatore dei Blues sarà Samuel Eto'o. Non so se vi piace questa attesa. Sempre oggi invece dall'Inghilterra una offensiva armata a suon di quattrini delle due di Manchester, cioè City e United, per Wesley Sneijder. Quindi anche qui si va a bussare, si andrà, o forse si potrebbe andare a bussare alla porta di Moratti. Zamparini che dice: ma come, non ho nessuna offerta per Pastore, neanche uno straccio di offerta, e te credo, con quello che costa l'hai battezzato, gli ha attaccato 60 milioni di euro, se non ricordo male l'ultima quotazione. Sul cartellino del prezzo, la mia impressione è che, al di là di tanto straparlare, se qualcuno è veramente interessato e va lì, facciamo con 35, esageriamo 40, che sono tantissimi, beh, lo porta a casa e come Pastore. Per il momento però nessuno è interessato, sembra essere interessato, alla stellina del Palermo. Primo acquisto della Roma, Bojan Krkić arriva dal Barcellona ed è ufficiale, l'ha detto anche Sabatini. Prima di Giuseppe da Torino, Alberto da Torino, 800240024 è il vostro numero verde. Io voglio ricordare qual è la situazione del super gioco dell'estate, cioè quello della panchina dell'Inter. Situazione attuale del casting, mentre Moratti dice: parlate con Branca, non so nulla, quando ci saranno delle novità, domandano presto. Parlate con Branca, non so nulla, novità presto. Intanto siamo arrivati qui, a questa situazione, negli ultimi giorni. Allora, il primo contattato era Marcelo Bielsa. No, tu no! No, tu no. Capello. No, tu no! Villas Boas. No, tu no! Ma c'era stato anche Carlo Ancelotti. No, tu no! Niente. Allora, Bielsa, Capello, Villas Boas, Ancelotti, no, tu no. Restano in corsa, Giuseppe e Alberto, ascoltate bene, restano in corsa. Gasperini. Dimmi di sì, che si può fare senza sparare. Gasperini sta aspettando al telefono, così come dorme con il telefono sotto il cuscino anche Sinisa Mihajlovic. Dimmi di sì, che si può fare. Ma oggi, amici ascoltatori, il più accreditato, e anche il nome che secondo me sarebbe quello corretto in questo momento, su cui il mio personalissimo candidato in questo gioco al contro Grande Fratello, che è Gus Hiddink. Dimmi di sì, è un parolone, dimmi di sì, è un parolone, perché Gus Hiddink, che è mica fesso, si è promesso al Chelsea, ma non per la panchina, per il ruolo di direttore generale, direttore tecnico, direttore di quel che volete, molto ben pagato. Quindi lo stress se lo prenda tutto il giovane Villas Boas, io mi metto lì in poltrona, mi fumo un sigaro e suggerisco e consiglio. Giuseppe da Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Senta, io sono un tifoso della Juve. Secondo me la Juve ha una confusione non solo sui giocatori, anche sugli abbonamenti. Cos'è che ha? Non ho sentito. Ha una? La Juve, sì, ha un proprio problema organizzativo, sì, non solo sui giocatori, anche come fare la campagna elettorale. Sì. Per lo stadio nuovo, sì. Io sono uno di quei cretini che ieri era in Galleria San Federico, c'erano 8.000 persone, e ci siamo visti, io che sono anni che sono abbonato allo stadio, mi sono visto passare gente solo perché aveva la carta member, poteva fare l'abbonamento, poteva fare la prelazione prima di me, che è arrivato prima. Poi per i nostri giocatori, io continuo a essere juventino, ma per la maglia, che non esiste neanche più, perché questa l'abbiamo giocato anche con la maglia morbosamente tricolore, con una pubblicità stupida, per me. No, ma lasciando stare la pubblicità, io sposo questa considerazione, ma lei saprà come le magliette sono come i Kleenex ormai, no? È brutto per un tifoso. Io ho 53 anni e sono la bellezza di 46 che seguo la Juve. La cosa più brutta è che non penso che siano i nomi, come ha detto anche prima Pisu, che delle volte non sono i nomi. Noi abbiamo giocato con Prandelli, con Tavola, con Birindelli, abbiamo giocato con giocatori che veramente erano giocatori. Adesso sono diventati tutti mercenari. Beh, quando sì Giuseppe, questo sì, è un discorso epocale questo, no? Nel senso che apparteniamo ad un'epoca diversa, che insomma è figlia dei tempi, mi viene voglia di dire, ma forse è anche questa una banalità. Certo, però lei non dimenticherà come accanto a, lei ha citato Prandelli, Tavola, c'erano Bettega, Causio, Tardelli in quegli anni, accanto a Birindelli c'era Zidane. Dunque ci sono, ogni grande squadra è fatta di grande squadra, è fatta di superstar e di gente che corre per le superstar. Ogni grande squadra è una sinfonia in cui, per usare le parole di Eto'o, c'è chi suona il violino e c'è chi suona il tamburo. Dunque il problema è che questa Juventus non ha, così com'è, non è un'orchestra e soprattutto non ha grandi solisti. I grandi solisti a Torino, ed è un dato di fatto, in questo momento non vogliono venire. Alberto, lei che dice? Ma innanzitutto buongiorno. Saluto, mi accodo anch'io, sono secondo tifoso juventino della trasmissione di sì. Oggi. In realtà, rispetto al precedente radioascoltatore, volevo dire che anch'io ieri mattina ho fatto una puntata presto in Galleria San Federico, c'era sì. Gente che arrivava da fuori, ha bivaccato la notte. Ho avuto la brillante, devo dire, pensata di andare in una lottomatica e non c'era nessuno, ho fatto il mio bel abbonamento senza nessun tipo di problema, per cui sicuramente forse è stato un problema di comunicazione, credo, voglio credere. Guarda, perché... io non saprei, sinceramente me lo state raccontando voi, mi state raccontando voi questi disguidi, non ne sapevo nulla, ma proveremo anche eventualmente a contattare la Juventus per sentire, affinché ci spieghino se ci sono stati dei problemi, quali problemi sono e quali sono le forme attraverso le quali sia è possibile sottoscrivere questo abbonamento. No, ma quello che mi colpisce, non so quanti fossero ieri davanti alla sede della Juventus, però tutta questa voglia e questa fiducia nella Juventus mi sembra invece un bel sorriso, no? per la vostra squadra. Quello che voglio dire è che in realtà secondo me ieri c'era tutta la ressa, perché è più la curiosità di entrare nel nuovo stadio che è figlia di questa ressa, perché se no la Juve degli ultimi anni in realtà lascia il tempo che trova, insomma sarebbe, come ha detto il radioascoltatore precedente, da lasciare un po' perdere. Io volevo fare due o tre considerazioni velocissime. Prego. Sono così pessimista sul prossimo anno, perché in realtà penso che dai tempi di Zidane a noi manca la luce in mezzo al campo. Non sono neppure come quelli che dicono che Pirlo è vecchio, perché a 32 anni uno come Pirlo può aprire veramente la luce nella Juve, perché è un giocatore che può giocare anche da fermo ed è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Alberto, giocare da fermo non è Pirlo. Cioè, che Pirlo sia un super giocatore siamo d'accordo, che non sia vecchio a 32 anni abbastanza, perché comunque il chilometraggio è elevato, soprattutto per uno che ha quel fisico e che per anni è stato inventato anche interditore, quindi è uno che un fisico non certo da Superman lo ha spremuto parecchio. Però attenzione, Pirlo è tuttora uno dei più forti centrocampisti del mondo, ma nel suo ruolo, cioè nel ruolo in cui l'ha inventato Ancelotti, o Mazzone prima a Brescia, se vogliamo, con quell'esperimento precedente. Però Pirlo trequartista non è in questo momento uno dei più forti del mondo, se gioca trequartista. Quindi questo è un equivoco da cui secondo me converrebbe uscire. C'è chi chiede una trasmissione seria, di trasmissioni serie ne sentiamo già un sacco, vogliamo divertirci un po', perdonateci, trasmissioni serie a parlare di pallone o di sport in genere mi sembra... Non mi pare il caso, soprattutto il 22 di giugno, ma neanche in altri giorni dell'anno, a mio parere. Angelo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Una trasmissione. Invece... Vuoi una trasmissione seria? Vuoi che faccio il serio? No. No, non so. È un po' il cancan che si sta facendo seria intorno all'Inter. Io sono tifoso dell'Inter. Sì. Un po' che l'ironia che questi giorni sta gravitando intorno a noi nerazzurri, che magari fa apparire la trasmissione forse meno seria. Insomma, io non l'ho detto, comunque sarà stato qualche altro. Ma secondo me di sport si può parlare, certo, seriamente, perché non è che siamo qui a raccontare stupidaggini, stiamo qui a darvi anche delle notizie, ma si può parlarne anche in modo un po' sereno, no? Non c'è bisogno di sputarsi in faccia, voglio dire. Comunque, no, se volete una trasmissione seria, non so, guarda, in TV magari volevo qualcuna solo, c'è. Sì, no? Volevo solo dire semplicemente che questo è un effetto e non la causa, cioè nel senso che Moratti si è trovato d'amblè in mano una situazione che non aveva previsto. Poi è tutto l'effetto mediatico che crea gli allenatori che possono o che non possono andare all'Inter. Io credo che la dirigenza interista abbia dimostrato serietà e affidabilità negli ultimi anni e stia facendo le cose in modo da non fare degli errori. Sì, sì. Per cui se si sono presi del tempo o se si stanno prendendo del tempo, legato anche all'indisponibilità effettiva di taluni allenatori. Non no, si può certo. pretendere, per il soffatto che Moratti abbia i soldi, che tutti gli dicano o gli possano dire dei sì. Forse ecco le canzoni che abbiamo ascoltato un po' prima, le rime fatte un po' prima, insomma, hanno potuto ferire qualche tifoso dell'Inter, non me personalmente. Ma meno male, perché i tifosi intelligenti non saranno feriti, saranno fatti una risata. Insomma, ma mi sembra normale, è chiaro che l'argomento allenatore dell'Inter è di stretta attualità e che onestamente tutta questa vicenda, soprattutto per chi non è interista, è molto intrigante. Per chi è interista magari un po' meno, un po' più di sofferenza c'è, sempre sofferenza tra molte virgolette, perché... Se volete una trasmissione seria, cercatela da un'altra parte. Facciamo così. Ragazzi di là dal vetro, fate i bravi, fate le facce serie, eh? Se no vi mando via. C'è un ascoltatore che suggerisce di fare un casting anche ai giornalisti di Radio 24. Ma che informazione è? Andate bene Italia 1, peggio di Biscardi. Mi scrivono, raccolgo con un sorriso. Raffaello da Modena, Cristian dalla provincia di Torino. 800 24 00 24 è il numero verde. Raffaello, buongiorno. Sì, buongiorno, il mio sarà un intervento estremamente serio. Bravissimo, faccia seria, mi raccomando. Esatto, allora... Non rida, no, che non le scappi da ridere, parlando di calcio, che non le scappi da ridere, mi raccomando. Assolutamente no. Guarda, io sono un tifoso juventino e per commentare la situazione preferisco farmi una mezza risata sulla vicenda della panchina dell'Inter. Sì. Dunque, mi riallaccio a quello che ha detto l'ascoltatore in precedenza, che ha detto che la dirigenza interista sta cercando di fare le, fare le cose al meglio. Ho fatto questa piccola riflessione. Lo scorso anno l'Inter è tornato da Madrid con una Coppa dei Campioni, ma senza un allenatore che è rimasto direttamente a Madrid. Sì. Poi ora si sono trovati con la grana di Leonardo, con i milanisti, i cugini milanisti che dicevano: guardate che si è comportato male anche con noi. Non lo dicevano esattamente così, ma comunque no, insomma, il senso era grosso modo quello. No, certamente Leonardo, guardi, io oggi non so se è capitato anche a lei di leggere il Corriere della Sera, dove c'è un appunto di Daniele Dell'Era, pagina 54, dove dice grosso modo quello che ha detto l'ascoltatore di prima, cioè l'Inter si è trovata a dover gestire questo capriccio da bambino di Leonardo e si è trovata spiazzata. Certamente il mercato e il toto allenatore vengono fatti pubblicamente, come non in tutti i grandi club accade. Certo, però ecco, alla luce di questi fatti la cosa che mi ha fatto un po' ridere è che poi siano andati a cercare il Capello, che dalla Roma è andato via in maniera un po', diciamo, un po' discutibile. Alla Juve non ha lasciato un grandissimo ricordo per come è andato via nel momento in cui è andato via. Insomma, forse non hanno fatto grande, diciamo, non stanno sfruttando l'esperienza del passato per scegliere il loro allenatore. Insomma, non credo che abbiano imparato molto dalle vicissitudini passate di Capello. Ecco, se stanno cercando un risultato. Ecco. Beh, ma comunque Capello è un. Siamo tutti d'accordo sul fatto che Capello, pur con tutti i suoi volta faccia più o meno noti, più o meno pubblici, sia comunque un allenatore di grande carisma, sia comunque un grande allenatore. Anche se qualcuno lo vede un po' bollito, non ho riscontri per dire questo, certamente non sta facendo quello che aveva sognato probabilmente sulla panchina dell'Inghilterra, però è certamente un grande allenatore che è stato, a mio parere, giustamente sondato, perché qui si tratta appunto di scegliere, di capire che cosa si vuole da chi andrà a guidare l'Inter, e quindi vengono contattati i grandi allenatori. Continuo ad essere dell'idea che un grande allenatore di grande carisma non invischiato nelle nostre beghe da cortile, come Capello, come era Leonardo, come sarebbe stato Ancelotti, che però se ne è guardato bene, ebbene sarebbe proprio Gus Hiddink. Non so se sia prendibile, non conosco la situazione, probabilmente sta cercando di conoscere anche l'Inter, la situazione contrattuale dell'allenatore olandese, però potrebbe essere la scelta corretta. Poi c'è invece chi sogna un Inter che avrebbe già le mani su Guardiola piuttosto che su un ritorno di Mourinho, cioè sarebbe già proiettata al futuro, e da questo deriva l'incertezza del momento. Non lo so, lo scenario è ancora avvolto dal fumo o dalla nebbia. Cristian, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno a tutti. Da romanista che abita nella provincia di Torino, sì, posso dire all'ascoltatore prima, gioiosamente, scherzando, che sì, secondo me Capello, quando è andato via da Roma per venire a Torino, un ciclo l'aveva più. Come vi permettete di continuare a fare gli spiritosi in una trasmissione seria? Come vi permettete di fare delle battute? Io l'ascolto qui, perché è proprio divertente, perché la già la vita è così dura, perciò se non... Ma no, ma poi, ma io, guardi, poi la chiudiamo questa storia, però io mi annoio mortalmente, figurate, a parlare tutti i giorni di pallone, magari anche di sport, eccetera, e a doverlo fare seriamente, cioè, senza sorriderci sopra, ma anche senza fantasticare, no? senza sognare. Se parliamo seriamente un'ora di calcio mercato, ci facciamo due palle così, secondo me, due palloni così. Dica. Senta, la mia domanda è questa: la nuova Roma che sta nascendo, sì, la scelta fatta di Luis Enrique, perciò il concetto della cantera, di giocatori che giocano in una certa maniera e tutti. Io l'unica cosa che vedo è che però cercano o delle mezze punte o delle punte come quella che è stata acquistata oggi. Allora la mia domanda era: secondo lei il ruolo di Totti sarà poi quello di fare il Messi, aspettando che i due laterali, che potrebbero essere questo nuovo ragazzo e Vucinic, vadano in questa rete? È una bella domanda. Questa è una bella domanda. Però, secondo lei, la domanda vera e propria è questa: cioè, intorno a tutti dicono che il simbolo e tutto continua a essere, ma poi mi sembra che la nuova Roma che sta nascendo, giustamente anche perché i tempi cambiano, sia una Roma dove Totti forse trovare posto sarà sempre più difficile. Ma io non credo, Cristian, io la ringrazio, ma non credo sia così. Totti è stato strabenedetto da Sabatini, nel momento in cui si è insediato, che gli ha fatto una serie di elogi, come ha scritto qualcuno, neanche Ilari Blasi, no? Così tanti complimenti neanche da sua moglie. Io credo che Totti continui, soprattutto in questo momento molto confuso, molto complicato, continui ad essere il vero e unico punto di riferimento. Questo è ben chiaro, credo, anche alla proprietà che si va formando in un momento di tale confusione, che nessuno tocchi Totti, che nessuno tocchi la centralità del capitano, e credo che così avverrà anche sul campo. Poi, francamente, è ancora dannatamente presto per capire come sarà la Roma del futuro. Innanzitutto non è ancora risolta la questione in maniera precisa, la questione societaria, e senza di quella non si parte. C'è un nuovo allenatore che è suggestivo, come Luis Enrique, c'è un primo acquisto che è Bojan, ma è davvero terribilmente presto per capire che Roma sarà. Non è possibile fare previsioni. Innanzitutto bisogna capire che cosa farà la Roma di quel super giocatore, e io continuo a ripetere che è Mirko Vucinic, che sembra sulle bancarelle del mercato, però non è così facile soddisfare le richieste economiche giallorosse. E allora, da Wimbledon, io saluto Vincenzo Martucci, penna illustrissima della Gazzetta dello Sport. Ciao Vincenzo. Buongiorno a voi. Buongiorno a te. Visto che ci chiedono di fare i seri, partiamo dalle lacrime, che sono quelle di Serena. È stato il primo così colpo al cuore, la prima emozione vera, no, questa dell'edizione nascente. Sì, le lacrime sono diventate una pioggia torrenziale oggi. Già il primo giorno era stato duro, oggi è durissimo, sta piovendo da stamattina, è aumentata la pioggia, non si gioca su nessun campo se non sul centrale, quindi Venus Williams in campo. Previsioni brutte, anche se sperano in una schiarita, ma insomma, ecco, da una lacrima sul viso si è passata a un'inondazione. Quali sono stati i primi spunti di questi due giorni, secondo te? Ma i primi spunti forse sono legati solo alle Williams per ora. Le Williams che sono tornate come erano andate via, questo sicuramente va a demerito del tennis femminile, perché non ci può essere una tale schiacciante superiorità anche da parte di giocatrici che sono state via un anno come Serena e 5 mesi come Venus. Questo è impressionante, e pensiamo che le loro avversarie si sono allenate e hanno giocato partite tutti i giorni in questo tempo. Invece sembra che il tempo si sia fermato. Non dimentichiamo che le sorelle Williams dal 2000 hanno praticamente caratterizzato, hanno vinto sempre loro, comunque sono andate sempre in finale tranne un anno, dal 2000 a quest'anno. È una cosa impressionante. Altri motivi, Federer che appare molto in palla, che appare molto in palla, molto pronto, molto sicuro, e niente, il resto poco, ecco, c'è questa cosa positiva per noi, gli italiani sembrano essere diventati un popolo di erbivori, perché Seppi e Lavinci, che hanno vinto i tornei precedenti sabato scorso, sembrano molto molto rodati, molto forti, hanno superato molto bene il primo turno. Speriamo bene. Senti, ma dicevi di Federer, c'è voglia di classico, no? In questa edizione di Wimbledon, dalle sorelle Williams, per vedere se sono ancora loro, a Roger Federer, che magari si giocherà l'ultima occasione. Cosa dici? Sì, beh, ultima occasione no, perché Roger assolutamente, ecco, non facciamo questo errore con un campione di questo tipo, uno che ha vinto quanto ha vinto lui su tutte le superfici. C'è sempre il colpo in canna, si è visto all'ultimo Roland Garros, l'avevano molti dato per spacciato già prima, e per poco non vince Roland Garros, perché se lui vince il primo set probabilmente vince tutta la partita, anche contro Nadal, quindi no, questo è il suo campo, qui si sente ancora più sicuro. Secondo me i primi due favoriti sono lui e Murray, più degli altri due, più di Djokovic e Nadal, poi magari i risultati mi smentiranno, ma mi pare che gli altri due siano un pochino più stanchi di testa e siano più carichi in prospettiva successiva, cioè cemento sugli Stati Uniti. Questo è un pochino considerata una fase della stagione, si gioca poco sull'erba e loro secondo me sono già con la testa a New York. Vincenzo, un'ultima cosa, e riguarda Regina Francesca, che dovrebbe tornare in campo oggi, però tu dici che piova a dirotto, quindi potrebbe non giocare Francesca Schiavone, che è stata, a proposito di emozioni di cui si diceva prima, di prime pennellate emotive di questo Wimbledon, le lacrime di Serena, ma anche il tuffo al cuore che si prova nel vedere Regina Francesca sul centrale. Sì, io sono, devo dire che Forse sono uno di quelli che la pensa controcorrente, cioè molti, ma io stesso scrivo che tecnicamente ha dei problemi qui sull'erba, perché obiettivamente li deve avere chi gioca come lei, con questo top spin, con questo caricare tanto i colpi da fondo. Però poi in realtà fisicamente ha altre caratteristiche che vanno molto bene sull'erba, è potente, corre bene, c'ha questo slice. Gioca bene a rete, quindi perché no? Finora ha raggiunto al massimo i quarti nel 2009, però secondo me lei una possibilità ce l'ha, c'ha un buon tabellone e c'ha uno spirito secondo me molto molto migliore di quello che aveva a Parigi. Lei secondo me è arrivata a Roland Garros non prontissima, mentre qui è arrivata così come l'abbiamo lasciata a Parigi, e secondo me anche più carica, perché si è resa conto che forse con la Lee insomma, non dico che ha sciupato un'occasione, ma insomma, se partiva meglio avrebbe vinto il secondo Roland Garros, quindi perché no? Ecco, con una Schiavone che ci proverà, possiamo sperare, forse è l'unica ancora purtroppo nella quale possiamo sperare. Vincenzo, ti ringrazio, grazie davvero, buon lavoro, a presto. Grazie a Vincenzo Martucci, inviato della Gazzetta dello Sport, così abbiamo anche spalancato i cancelli di Wimbledon e torneremo a varcarli naturalmente nei prossimi giorni. Io chiudo con gli ascoltatori, mentre c'è un SMS di Max Pisu, che ricorda che giovedì, venerdì e sabato sarà allo Zelig di Milano, e scrive: tifosi juventini, non accorrete, giusto? Ah, tifosi juventini e non accorrete, mancava la virgola. Carlo da Genova, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, saluti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo semplicemente, da tifoso genuano da sempre, molto così accanito, sebbene il calcio sia una cosa sicuramente seria, ma non da farci certi drammi ovviamente, come magari qualcuno scrive così, dire questo, volevo solamente fare un appello un po' a tutti i tifosi del Genoa, che ogni tanto subiscono un po' qualche tentennamento per quanto riguarda un po' tutte queste vendite che facciamo magari a Milan e Inter eccetera. Il nostro presidente, il grande Enrico Preziosi, ha costruito una società di altissimo livello, siamo fra le prime 10 squadre italiane ormai in tutti i sensi, come settore giovanile, osservatori, organizzazione, store, merchandising e tutto quello che circonda la grande società. Trattiamo con le più grandi società d'Europa, oltre che italiane, eccetera. Insomma, vuole difendere il lavoro di Preziosi, che peraltro il lavoro del Genoa, che peraltro mi sembra splendido, no? È questo il senso. Più che altro per renderci conto che, voglio dire, non abbiamo multinazionali alle spalle, eccetera, quindi dobbiamo tutto a lui. E lui veramente, da quando ci ha salvato dal fallimento al Tribunale di Treviso, dobbiamo solamente dire grazie Enrico per tutto quello che hai fatto per noi e continui a fare. Ha costruito una società veramente eccezionale. Sì, sta facendo molto bene. Le ultime stagioni del Genoa sono state di alto livello. Non so se Carlo fosse amico o parente di Enrico Preziosi, ma naturalmente scherzo, però fa bene a sottolineare questo tipo. Ma non mi sembra che ci siano grandi lamentele sulle cessioni di pezzi da 90. Credo che il Genoa debba vivere in questa dimensione, come d'altra parte fa benissimo l'Udinese. Allora, a proposito di ex genuani, invece, vi diciamo questa, che El Shaarawy sta facendo la maturità, fate bene attenzione, Franco Piantaneda mi segnala che cosa ha scelto come traccia della prova di oggi, ambito socio-economico, saggio breve, ambito socio-economico, siamo quello che mangiamo, questa è la traccia data agli studenti e scelta da El Shaarawy. So se vi piace, io ve la dico. Ciro da Napoli, buongiorno. Buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori tutti. Ascolti, vorrei parlare dell'Inter, dell'allenatore dell'Inter. A me piacerebbe Spalletti, però nessuno ha parlato mai di Beppe Baresi. Perché non si dà una chance a questo allenatore? Chiudo e l'ascolto per radio, grazie. E io invece le faccio sentire un'altra cosa. La tira Maradona, lo marca Andò, pisa la pelota Maradona, arranca per la brezza del segno del fondo mondiale. Inizia il tentativo di attaccare Maradona, gioca sempre Maradona. Segno, ta. Questo gol, che è quello che Maradona naturalmente segnò all'Inghilterra, non quello di mano ma l'altro, oggi compie 25 anni, quindi è il 25esimo compleanno, un quarto di secolo per questo gol che Maradona segnò il 22 di giugno del 1986 all'Inghilterra. Oggi non ha perso il pelo Maradona, almeno sulla lingua, perché parlando di Neymar, che ha detto io posso diventare il miglior giocatore del mondo, anche più forte di Messi, anche restando in Brasile, che poi in Brasile non resterà perché andrà al Real Madrid, come sappiamo tutti. Ebbene, Maradona ha detto Neymar è un maleducato come Pelé. Beccati questa, è un maleducato che non ha rispetto esattamente come Pelé. Messi è un giocatore eccezionale, non credo che nessuno riuscirà a superarlo. Dunque Neymar maleducato, lo dice Diego Armando Maradona, che intanto non ha perso il pelo sulla lingua e nemmeno la voglia di cantare, in questo caso insieme al genero El Kun Agüero. Chiudiamo questa trasmissione proprio con il duetto che dedichiamo alla Juventus e a tutti i tifosi juventini con Maradona e Agüero. Noi torniamo naturalmente domani alle 2, vi ricordo che venerdì, ultima puntata interamente dedicata al basket, ultima puntata di Palaspicchi, e sarà con noi Danilo Gallinari per rispondere molto seriamente, ci mancherebbe, alle vostre domande. Ebbene, ci sentiamo domani alle 2, Maradona e Agüero per voi, dedicato agli juventini. Sì.